Buongiorno, buongiorno a tutti da Buongiorno Mondi con Lorenzo D'Erasmo. Musiche per un buon inizio di giornata. Buona meditazione a tutti. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Avete appena ascoltato Buongiorno Mondi. Io sono Lorenzo D'Erasmo e vi auguro una buona mattinata e una buona giornata. Ciao.